Matti. Ehi, va bene, fa, dai, ci si riascolta, alla prossima. Buonanotte, buon tutto, per domani. Ciao, buonanotte. Sì, dai, già, non ti ne approfitto, così mi preparo la cosa per domani e poi mi faccio una riposata. Stamattina sembra così, ma tra una cosa e l'altra, prima di venire a casa tua, mi ho pulito tutta quanta la piscina, tra pulivapor, raschiamento, di pareti e quant'altro, insomma, ho dato di mio anche io. Grande ce l'hai. Quant'è? Boh, quasi 7 metri per 3 metri. Ma l'hai fatta da poco la piscina? No, ce l'ho, boh, forse 7-8 anni. Perché quando ero venuto io non c'era piscina. Quando sono venuto io a casetta non ce n'era piscina. Boh, non mi ricordo. Non ricordo, no, ma questa qua è di quelle esterne, di quelle che si piazza esternamente. Perché non di quelle gonfiabili, di quelle fisse, no? Sì, di quelle fisse, no, quelle gonfiabili no. No, avevo fatto il basamento in, praticamente con la terra, gli ho fatto il basamento in piano, poi gli ho messo i mattoni da marciapiede, però di quelli grandi, 50x50 granulari, li ho costipati e poi gli ho messo la sabbia per intasare tutto quanto, gli ho fatto un bel piano con una leggerissima pendenza, proprio perché sapendo che devo pezzare la piscina, sai, anche per svuotarla è meglio che l'acqua se ne va tutta quanto da una parte, e poi gli ho appoggiato la piscina lì, quindi insomma va bene, dai. E almeno se non puoi andare al mare ti puoi fare un bagno a te. Ma guarda, io credo che al mare, boh, penso che ci andremo lo stesso, per carità. Solo che c'è da dire una cosa, molte volte io la sera quando sto al lavoro, che non ho voglia per dire di andare al mare a fare il bagno, mi faccio una doccia veloce fuori e mi ci butto in piscina a rilassare un pochino. E già bella la piscina. Sono comodità, che quando c'è un condominio non è più a vero, vabbè, in via Lunesole c'è uno di condominio che c'è anche la piscina nel palazzo. Ma tocchi? Certo che tocco, non è che se si fa toccare, però è che... Non ho detto, ma tocchi quando ti metti dentro questa piscina? Sì, guarda, mi arriva l'acqua a 20 centimetri dalla gola. No, quella di Monte Oro non si tocca. Ma quale? Quella Monte Oro dove va Lucca certe volte? Cosa? Dove va Lucca certe volte? No, Monte Oro in Campania, c'è mio genere, non si tocca lì. È alta 2,50 m. Vabbè, questa l'hanno comprata così. Non mi interessa, noi l'abbiamo presa più che altro per i bambini qua. Sì, c'è anche Andrea Oceano, così da esterno già sono belli, già vanno bene lo stesso. Va bene, dai, io sto guardando la televisione, cioè ci sentiamo. Come ho già detto, sono un po' motivato a stare in radio in questo periodo, comunque passerà. Ciao, divertite, buono. Sì, d'accordo. No, è alta 1,60, diciamo 1,60 a pieno carico, ma noi non la mettiamo mai a 1,60 perché c'è Nicolas che è piccolino, quindi per non stare lì a nuotare sempre si deve attaccare anche alle pareti. Va bene, poi c'è anche la figlia di Nella che è piccolina anche lì, quindi non c'è bisogno di metterla per loro. E per loro però mi butto anche io. Tu ma sai, mi buttavo, ne avevo una lo stesso, 3 metri per 2, alta 60 centimetri. Ti puoi immaginare, i bandi che mi hanno fatto lì, guarda, la metà bastano. Sì, già va bene, quella là è una piscina 12, 13, 18, no 15, 15 per 7,50, 15. sono interne, la piccolo scavo fatta tutta i mattoni plastificata eccetera. Va bene, dai, vi saluto, alle prossime già ci sentiamo. Niente, vabbè, mi ricordo tu una cosa, mi ricordo, non mi ricordo più. Ciao, buonanotte a tutti e due, anche chi ascolta, ciao ciao. Ciao Claudio. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, domani ti chiamo, ti devo parlare di una cosa. Va bene, va bene. Puoi chiamare anche adesso se vuoi, non ne ho problemi. No, ma non è una cosa importantissima, se la parlo domani. Va bene, d'accordo Ricca, ci sentiamo domani allora. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao ciao Claudio. Avanti Riccardino, ritornato. Sì, sono tornato, ho mangiato la pizza e sono tornato. Buona era. Buona, buona, l'abbiamo lasciata riposare un giorno e mezzo, era più sufficiente. Come l'hai fatta, come l'hai fatta, che gusto. Vabbè, che anch'io la sto digerendo, dai, che l'ho mangiato anche io, ma ne approfitto, così mi preparo già che devo fare cosa. Vi lascio la vostra questione. Ciao Ricca, buonanotte, dai. Ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Domenico dell'Ascoltone, ci sentiamo domani, ciao ciao, buonanotte. Ciao Tino, ciao, ci sentiamo. Riccardi, che gusto era? Ah, avanti, avanti che saluti a Tino. Ciao Muscolo, ben sentito, alle prossime, ciao anche a Claudio. Gusto molto, c'era olive, cipolla, fiori di zucca, speck e poi basta. Caspita, una bomba. Mancava solo l'olio piccante e i fagioli, era una messicana. Eia. Ma l'avete fatta a casa? Sì, a casa, qui non arriva la pizza. Ah, non te la portano. Ehi, vabbè, se non si arrogna a farla a casa, non c'è bisogno che te la porti. Ma eri tu che stavi fischiando? No. Avanti, l'usignolo. Boh, vabbè, se vuole entrare, entra più tardi. E stavo dicendo, no, non ce la portiamo perché c'è anche 500 metri giù. Dal cancello di su sono 500 metri e non penso che te la portino fino a lì. Ah, è più lontano, troppo lontano dalla città. No, ma infatti quando sei ancora in città ancora te la portano. Ti fai un esempio, che sei proprio quasi in campagna, sei ancora in città e te la portano. Da me non ne portano, infatti ce la facciamo tutte le volte a casa. Infatti adesso che non si può andare a prenderla a domicilio, la stiamo facendo a casa, perché di solito non ne facevamo mai, perché non avevamo neanche il forno, l'abbiamo comprato da poco. Capito. No, io già sono fortunato, ce l'ho sotto casa la pizzeria, esco dal portone, giro e sono in pizzeria. Ne ho due, c'ho il veliero vicino e la croccante. Ah, ho capito, io di solito la prendo al viadotto la pizza, la pizzeria il viadotto. E dove? Via Succis? No, mi sembra così, via degli astronauti sempre, davanti alla cartoleria, dove c'è... Cosa ti posso dire? Alla fine del ponte. Sì, sì, ho capito dov'è. All'incrocio per andare via Prudice da un po' prima, ho capito dov'è. Sì, sì. Che da lì scendi in viale Trento. Andando giri da una parte e scendi in viale Trento. Via Pruniceda, c'è via Pruniceda più avanti, se scendi, se vai avanti e giri verso sinistra, verso destra, via Pruniceda, quella. Ah, ho capito, vabbè, già hai capito, oppure la prendo al caminetto. Ma dovete andare voi a prenderla così? Sì, la prendiamo sempre noi di solito, non ce la portano mai. Oppure per la fine è da Carlo. Guarda, se dove la dovete prendere? In via Baldella, da... Prima si chiamava Samuel Joe, adesso non lo so, perché dove, a fianco al tabacchino. Lì la fanno un bel buono, ai frutti di mare è un bel buono. Ho capito, non so come si chiama. E prima si chiamava Samuel Joe, adesso ha cambiato gestione. Eia, ma vero, non ce n'è rimasto nessuno, sono tutti andati via. Sì, Riccardo, infatti anche io adesso chiudo, mi vado un po' il televisore e poi me ne vado a letto, dai. Stamattina sono sveglio dalle 6. E addirittura adesso è stare che svegli alle 6. Quando devo pulire gli uccelli sì, devo pulire tutte le gabbie e cose, mi sveglio presto, devo fare la spesa, fare un sacco di roba, quindi mi sono alzato presto. Ho capito. Vabbè, vediamo se entra qualcuno, se no io provo a fare sintonia continua, se no mi sistemo la scrivania, mi sistemo tutte le radio. Ti auguro buonanotte, dai, sentiamo. Ehi, ci sentiamo Gianni. Alle prossime, saluto anche gli eventuali in ascolto. Non state in ascolto, però che voglio fare queste ossa, ne venite avanti. Sono i fantasmi. No, non i fantasmi, i fantasmi a orecchie di porco. Fateci dai, no? Vabbè, ci sentiamo domani, che adesso devo portare anche tutti i microfoni dentro, tutti i microfoni a tavolo, e più devo, se non trovo nessuno, devo portarmi anche il 43, tutte le stazioni base, una scattura ogni volta. Come detto, perché ogni volta fa il trasferimento? Sì, faccio un trasferimento, non le lascio la notte, poveracci, se questi si rovinano, le tratto bene. Sarò una gente in cuccia, non li usa a trasportare tutta quella roba. Bello mio, avanti. Ciao. Gianni, è entrato un orecchio di porco. Uscia poco. E beh. Chi sei? Dimmi subito il tuo QRZ, che non ti ho identificato. Ciao Bobutti, ben ascoltato. Ciao Riccardi. Ciao ciao. Voi riconoscete a me, io non riconosco a voi. Ciao Riccardi. Io l'ho riconosciuto che... Bergamo, infatti non mi ricordavo bene. Ti sei fatto due reggiative. Cosa c'è, bello? Beh, ho detto ti sei fatto due reggiate, Riccardi. Già lo credo. Io ero Manol, con cui l'hai sparato. Non volevo ammetterlo. Avete parlato in due. Sì, dovevi anche fare l'effetto QSB. No, lo sai perché se n'è accorto, perché poi abbiamo detto io passiamo di nuovo su lì, e lui se n'è accorto per quello. Ha fatto orecchie di porco. Ah, per quello, non era per il Roger Beep. No, perché gli ho detto passa su 10 tu, siamo passati su 10, lui ci ha seguito e praticamente ci ha seguito ridendo. Ma di figure da suo figliuolo? Il figlio dice che era pisciato. Oh, non l'ho più sentito poi, sono offeso. No, non penso. Un po' già si è incazzato, già si sentiva che era incazzato. Un po' no, vi ho riconosciuto io. Ho sentito l'altro giorno con Roberto, ha detto che stava mettendo le medicine. Vabbè, dai, è uno scherzo. Dai, è durato poco, dai. Già va bene così. Uia, che fresca. Ciao, Lord. Sì, poco a poco ero un po' pisciato in naso. Tu facci la voce fino a fine, raga. Sì, amico. Nico P, sono da Brescia. Attento, Riccardino. Mi ascolti? Sì, ti ascolto forte, c'è un po' di QSB, però ti ascolto bene. QSB ce lo posso fare, io mi guardo. Faccio così. Abbassato il coso e ti butto. Sì, lo so, potevi fare sai cos'è, mi sono dimenticato, mi è uscito di testa. Già, meno male che non c'è dato nome, cognome e indirizzo. Cosa? Meno male che non c'è dato il suo nome, cognome e indirizzo. Ah, è vero. Se no adesso l'avremmo fatta, ma tu non sei lo scherzo che gli hanno fatto tanto tempo fa, se lo sa un altro momento. E tu non sai quello scherzo che mi ha fatto di Giro una volta? No. Alghero, questa ragazza, siccome lui era un tipo che quando sentiva donne, capito, aveva fatto un bello scherzetto. Questa ragazza ce l'ha portata Alghero. Io sono nel porto, dove? Nello yacht. Ecco lo yacht, questo grigio. Sali su. Cazzo è alzato e dirà lo yacht della Guardia di Finanza. Mica non me lo ha letto. Cazzo, guarda che per poco la restavano io. Cazzo che qua, è mezzo in quattro, è di campanetta, è sfuggito. Me lo ricordo, me lo ricordo. Per carità, cazzo, tutti ridenti, c'è caratterizzato, a lì è il Sassari. Però anche io quando avevo 18-19 anni, di la verità. Ci siamo divertiti, dai, abbiamo fatto scherzi. Io ho una buon'anima di un cimino, voglio fare i nomi, gli ho fatto lo scherzo che ero sempre Manolo dalla città d'Espana, con quel espanato. Cazzo, mi ha dato tutte le sue coordinate per scambiare QSN. Non è mai limite la QSN che non me l'ha mai mandata. Non potevi mandare, lui ci credeva. Infatti, la potevi chiedere a Capri la QSN a vedere cosa faceva. Riccardi, mi scappava da ridere. E quando non rilanciavo si metteva a ridere Tonino. Ma secondo me un romano così ti farà mettere una pena, gatto. Poi è un bello scherzo l'abbiamo fatto. Non se l'aspettava, dai. Sì, vabbè. Uno più brutto che l'hanno fatto, ui, una volta. E cioè cosa gli ho fatto? E allora che lo si può raccontare, là. Il telefono è dimmelo. Vabbè, adesso è tardi, là. Disturbo la signora. A chi? A tua moglie. Guarda che io sono tutta un'altra parte mia. Ah. A me manco mi sente. Allora io sono all'interno. È una stanzetta, tutto chiuso con quei cartoni delle uova. Che infatti non può uscire neanche un rumore fuori, una risonanza perfetta. Ma ti ha fatto la bambina per te solo? Ehi, c'è un'acustica micidiale, guarda, fuori non senti niente. E uova messo ne hai? Sì, mi sono frullato. Io sto, intanto suona, sono in ferie forzate sino al 18 di luglio, quindi già non mi ha fatto un tasso con bagardo e mi divido. Tanto, la mattina intanto mi sveglio sempre alle 4 e mezzo, 5 e meno un quarto, dormo in poche ore e buon pascia, mi va bene. Ora me l'orologio incorporato. Allora, Riccardino, che fai, che fai? Cosa faccio? Cosa vuoi che faccia? Se sto alla radio, sto alla radio. Sono in ascolto. Tu sei a Filiquito, giusto? No, sono nel sud della Spagna, precisamente più o meno vicino a Gibilterra. Certo che sono a Filiquito. Tu sei a Gavoi, ui ui ui, poi sei andata a Ololai, ai ai ai. Ma sei molto giù di Filiquito, Riccardi? Io praticamente la parte più alta è Filiquito e sono, da qui vedo la stasera, sono 480 metri di altezza sul livello del mare, e invece qui a casa sono 450 metri sul livello del mare, una cosa del genere. Io non lo so, pure molto con sospizio, dove sono io, a vedere che altezza sono a livello del mare. Io vedo Sassari da qua. E anche io vedo Sassari da qua, non c'è problema. Gianni, tu non lo vedi perché sei già a Sassari. Cosa? Non lo vedo, tu vieni a casa. Io vedo tutta la Cinara, tutto il mare, le barche, tutto. Ho detto tu Sassari, non lo vedi. Sei già a Sassari, cosa devi dire Sassari? Ma mi ascoltate bene? Sì. No, no, perché per sbaglio ho regolato, diciamo, sul microfono ce l'ho a 12 invece che a 5. Stai strappando leggermente. E così è meglio. Bello bene, mi ascolti meglio così. A 1, 2, 3, prova. Lasciala così. No, stavo dicendo a qualcuno, stavo chiedendo perché ho sbagliato la regolazione e per sbaglio portando il microfono qui da dentro casa si è regolato a 12. No, lascialo com'è. E non me ne sono accorto, se no l'avrei messo subito a 5. E strappava un po', capito? Eia, eia. Chiamami Tony, perché ho provato a fare il tuo numero e mi risulta, mi dice che non esiste, che ne esiste. Se ne esiste. Ma sto scherzando. Aspetta. Allora. Dunque. Come ti ho registrato? Vediamo se Gianni. Allora, andiamo su. Certo, non ti trovo. Aspetta. Vediamo un po'. Come non ti trovo già? Non è che non mi hai messo. Sì, ci ho visto anche la foto tua, così, senti. Aspetta. No, non ti trovo già. Ma il numero mio ce l'hai, sì. Io c'ho il numero, però mi dice che ne esiste. Miri gli ultimi quattro numeri, finale. Aspetta. Sì, online. Ora su WhatsApp come ti ho registrato. Allora. Andiamo su rubrica. Andiamo qui. Ecco qua, adesso ti sto chiamando già, vediamo un po'. Tony, 60-20 finale. Perfetto, perché mi fa la chiamata e cade la linea da te? Senti. Beh, sta chiamando, aspetta. Si è occupato, anche l'altra volta già, quando ti stavo chiamando, la stessa cosa. Ma mi falla la chiama. Ma non è che mi hai bloccato tu, no, a me. Ma, invece a vedere. Niente, lo stesso, si è occupato. E com'è possibile? Anche l'altra volta che ti stavo chiamando, la stessa cosa. Ma tu mi sei preoccupato, sei preoccupato. E poi ti ho dato un messaggio. A te voglio fare un'altra prova invece già. Vediamo così se ti chiama. Dunque, andiamo su WhatsApp. Adesso ti chiamo su WhatsApp. Voglio vedere. Ti faccio una videochiamata. Sì, ti chiama. Scusate se mi intrometto anche se siete in una conferenza molto importante, vi dichiaro che io vado in QRT e ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Tonino. Eccomi, Riccardino. Riccardino. E Riccardino sempre qui. Beh, l'ha fatto la nanna. Ma non sai cosa devo fare, si deve trasportare tutti i microfoni, tutti gli affari che ogni volta da dove modula a casa sua, trattarli bene, dice, perché sennò si rovina. Addirittura. Allora, ma sai che ha tornato i microfoni, se ti posso dire che ha tornato a Susi. Ciao. Come si chiama? Quello largo, come si chiama? Ma che è quello che c'è Don Diego. E cosa me la metto più io? Lo Shure. Ah, lo Shure, quello grigio grosso, triplastica. È alto come il microfono. È un ben comprante. Lo so. Ce l'aveva cosa? Gianfranco, Tischio. Ah, tuo amico. Eh? Il tuo amico. No, amico di Ruoia. Lo splatteravo un pochettino, grazie, l'aveva denunziato per 3 metri. Tanto non l'hai fatto. L'ha denunciato. E da quando non mi hai fatto nulla. E io ci avevo 1000 watt sotto, capito? Ma no, è bandato a terrane, quasi 2000. Andrei per galaxy 1000. Ui, ui, ui. E tu cosa stai facendo di bello già? Niente di che, tu, niente di che. Cosa sto facendo? Nulla di che. Le solite cose, fare la spesa a casa, pulire, fare, nulla. Queste cose qua. Boh, basta. Non sto andando né al mare né nulla. Sono andato a farmi un giro, ho preso una pantalona. Così tanto per... Ma... C'era anche poca gente, la verità. Ma dimmi una cosa. Domani è 3. È apertura a tutto. Ma in macchina sempre se si di 2 o 3 bisogna avere la mascherina. Io ho telefonato i vigili urbani l'altro giorno perché devo andare con un amico a farci un giro là. E mi hanno detto che non potevo sedere anche davanti. È interessante che avevamo la mascherina tutti e due. Che cazzata che. Fino a ieri era così, poi non so, adesso si è cambiato, se è tutto libero adesso, boh. Libero se non c'è il punto, libero di andare da una regione all'altra. E infatti, sempre mantenere la distanza, però la maschera si è avuto che bisogna sempre averla. Che è strozzata tu. Che ha pagato. Se poi i guanti non si trovano neanche. Interpretazione, chiamate i vigili umani, ma a mio avviso dice basta che mettete la mascherina, noi non staremo fermando due persone, ne fermiamo 5, se sono in 5 magari, ma 2 non le fermiamo nemmeno. E io sono uscito in 2, e con la 50, non mi hanno mai fermato, la verità. Con mia figlia pure, seduta dietro, non ci ho mai fermato. Vabbè, ma i familiari sì, i familiari e anche compagni, capito? Sì, ma cosa ne sa la polizia se sono familiari o no? Vabbè, ti chiede i documenti, ti dice, fa vedere i documenti sui, vede che è lo stesso tuo cognome, cazzo. Vabbè, ma nel momento ti possono fermare per sapere, ma infatti non mi hanno mai fermato, però ti sto dicendo, capito? Sì, ma loro lo fermano quando sono tante persone, perché allora lì così non va bene, capito? Perché sei tutti attaccati. Va bene, una persona davanti e voi dietro, non lo so, se sono familiari sì che va bene, che poi non capisco questa differenza. Se sono familiari va bene, se invece sono estranei no. Ero al supermercato l'altra volta, c'era 50 vicino a me, e vado a pagare, mi fa pregare la cassa. No, no signora, vai di fuori, non sia vicino. Ha detto sì, infatti, anche in casa mia, quando ci corichiamo, metto un plexiglass e ci separiamo. Tu ti rendi? È rimasto di merda. Vabbè, lui non poteva sapere che era fatto una cucchia. Cazzo, ma non si vedeva io da poppa. infatti. Vabbè, tu sei nella gabina adesso, siete separati. Ma sono sempre insieme. K, quando dormite. No, ma non metto i pesci là. All'inizio. Vabbè, tu mi dà, io chiudo. Me ne vado, devo andare in bagno, adesso mi gioco vicino. Allora, ci sentiamo tu, dai, alle prossimine. E a quando è che ci prendiamo un caffè? Non lo so, adesso vediamo. Quando siamo liberi tutti e due. Io sono sempre libero, lo sai. Quando ti assassini, fammi sapere, fammi un colpo di telefono. Anche su WhatsApp non fa nulla. Dove prendi li chiami? Via, se il telefono proprio devo chiamarti su WhatsApp. Ok dai, ci sentiamo già. Ciao, buonanotte, stammi bene, alle prossime. Ciao, buonanotte.